Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, vi auguro una buona giornata. Allora, parliamo di mercati oggi perché la situazione greca continua a tenere davvero in scacco i mercati nel bene e nel male. Come vi abbiamo anticipato anche ieri, si sta preparando, sta prendendo forma questo piano realizzato da Germania e Francia per aiutare la Grecia. Non c'è nessun dettaglio, termini e tempistica sono ancora sconosciuti. Da quello che si sa c'è che il governo tedesco avrebbe messo a punto una misura di intervento dal valore di 5 miliardi per quello che riguarda dalla parte di sua competenza nell'ambito di un progetto più complessivo di aiuto europeo di 25-30 miliardi. Nel piano ci sarebbe un intervento diretto delle banche tedesche e francesi pronte ad acquistare i titoli del debito greco in scadenza e certo è una soluzione positiva per evitare il tracollo delle finanze greche e la bancarotta di questo paese dell'Eurozona. Ma non possiamo fare a meno di chiederci, è giusto che i mercati, perché la borsa sta continuando ad andare bene, brindino a questo salvataggio come hanno fatto ieri e come stanno continuando anche a fare oggi? È giusto che la borsa cresca per pura scommessa sul salvataggio greco? Quali sono le domande di un piccolo investitore relativamente a questa situazione? La borsa, dicevamo, continua ad andare bene, peraltro da qualche ora a questa parte a tenere banco è anche un altro tema, quello valutario. Per la verità sta accadendo da qualche tempo, l'euro sta continuando a perdere posizioni, sul dollaro soprattutto, ma ieri la notizia è stata quella che invece è arrivata dal Regno Unito, dalla Gran Bretagna, con la forte discesa registrata dalla sterlina ai minimi da 10 mesi sul biglietto verde. Anche questa è una situazione da monitorare, con quale grado di attenzione. Stamattina sono tutti i temi che analizzeremo con i nostri ospiti, che saluto. Luca Pierazzi, responsabile per l'Italia di East Capital, benvenuto, bentornato anzi. Buongiorno. E un bentornato anche a Marco Vicinanza, direttore investimenti fondi comuni di Arca SGR. Buongiorno. 800 24 00 24, microfoni aperti come sempre agli ascoltatori che magari vogliono capirne un po' di più rispetto ai temi economici che compaiono in questi giorni sui giornali, nelle pagine finanziarie, e soprattutto 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Peraltro ovviamente teniamo sotto controllo i mercati, ma anche tanti altri temi, tassi di interesse per esempio. Questa è la settimana della riunione della Banca Centrale Europea, non abbiamo indicato su un possibile aumento dei tassi, ancora la situazione rimarrà probabilmente stabile a lungo, ma è probabile invece, come indicano alcuni, che Jean-Claude Trichet, il numero uno della Banca Centrale Europea, possa cominciare a dare qualche dettaglio in più invece sulla cosiddetta exit strategy e quindi in sostanza come si comincerà a ritirare dal mercato questa enorme liquidità in circolazione. Un altro tema importante della settimana è poi anche l'occupazione americana e questo dato lo conosceremo venerdì. La borsa oggi intanto, allora, dicevamo ieri rialzi piuttosto significativi, dovuti per la verità alla ripresa di attività di fusioni ed acquisizioni in circolazione e le notizie appunto che si sono diffuse in questi giorni. Ieri si è appreso che il colosso delle assicurazioni britannico Prudential avrebbe acquisito gli asset asiatici del gruppo americano America International Group. Questo è stato un business, è un'operazione da 35 miliardi di dollari che appunto ha galvanizzato, vi dicevo, i mercati. Anche oggi bene, più 0,38% a Parigi, più 0,34% a Francoforte, Londra sta guadagnando mezzo punto, Milano, che è stata la piazza negativa per gran parte della mattinata, ha cambiato direzione, adesso segna un rialzo dello 0,14%. Gli acquisti in questo momento stanno riguardando Fiat, più 2,58, ieri sera abbiamo avuto i dati sulle matricolazioni in Italia e poi ci sono tante indicazioni per il settore che stanno venendo dal Salone dell'Auto di Ginevra. Fondiaria, che ha avuto un paio di settimane molto difficili, oggi recupera l'1,78%, Exor, azionista di riferimento di Fiat, in guadagno di 1,5 punti. Mediobanca, più 1,43, Mediolanum, più 1,32, un rialzo di 1 punto. Su STM invece il mercato sta bocciando stamattina i conti di Luxottica, pubblicati ieri sera, nonostante peraltro il gruppo abbia annunciato un aumento della cedola da distribuire agli azionisti. Il titolo perde 2,5 punti, è partito con un ribasso di 4 punti, quindi tutto sommato ha anche recuperato un po'. CIR, dopo i rialzi di ieri, oggi cede l'1,70. Telecom ancora sotto pressione, meno 1,59%, Geox meno 1,48% e Tenaris meno 0,7%. Questo è quanto ci racconta la borsa in questo momento. L'euro sul dollaro, visto che di mercato valutario parleremo anche stamattina, adesso abbiamo di nuovo un recupero a 1,35%. della moneta unica europea sul biglietto verde. Stamattina l'euro era scivolato a quota 1,34,33, ha recuperato quella che in gergo si definisce una figura, perché adesso è a 1,35,33, e questo appunto è quanto ci indica il cambio in questo momento. Lasciamo la borsa, andiamo, in realtà rimaniamo sui mercati, sentiamo un po' che cosa si sa di questo piano di salvataggio della Grecia. Miliardi di euro. Inizia a prendere forma il piano di aiuti per il salvataggio della Grecia, targato Francia e Germania. Un progetto che verrebbe realizzato attraverso l'intervento di istituzioni bancarie pubbliche ed investitori privati e che consentirebbe di traghettare le finanze pubbliche greche fuori dalla tempesta, rinsaldando quindi gli equilibri dell'eurozona e della stessa moneta unica. Al momento non si conoscono altri dettagli, ma una cosa è certa: la Grecia ha bisogno di prendere a prestito quest'anno 54 miliardi di euro. Finora ne ha raccolti 13 miliardi, ma tra marzo ed aprile dovranno essere rinnovati altri 22 miliardi di titoli di Stato. Il tempo dunque stringe, anche se le borse ieri sembrano aver accolto positivamente la notizia, brindando alla prospettiva che eviterebbe il tracollo delle finanze elleniche e soprattutto eviterebbe il contagio alle altre economie dell'eurozona in difficoltà. Tutti i mercati del vecchio continente hanno infatti archiviato la seduta in positivo in una giornata caratterizzata tra l'altro dal tonfo della sterlina, che è scesa ai minimi da 10 mesi nei confronti del dollaro, a quota 1,48. Un segnale quest'ultimo che riflette la preoccupazione, anche se differente, degli investitori nei confronti dell'economia britannica a causa dell'incertezza politica e finanziaria a Londra dopo le elezioni di primavera. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Io vedo che ci sono già numerose prenotazioni al nostro centralino e già numerosi messaggi al 349 238 6666. Vi leggo subito il primo, lo dico a Pierazzi a vicinanza: perché salvare la Grecia e l'Argentina a suo tempo no? Ogni volta che tocchiamo questo argomento effettivamente sono in molti a fare questo paragone. Pierazzi, vengo subito da lei. Ci sono dei margini per poter fare questo paragone? Chiaramente due periodi completamente diversi, siamo quasi ormai a distanza di 10 anni dal tracollo argentino e non vorrei celebrarlo con un altro europeo. No, questo penso che non succederà. Non si può fare un paragone, perché il caso della Grecia è un caso che riguarda tutta l'Europa, quindi è una costola di un sistema che comprende tanti paesi che hanno un interesse diretto nel fatto che la Grecia continui a stare con un sufficiente equilibrio sui mercati. L'Argentina era una storia a parte, insomma, l'Argentina non faceva parte di una comunità di stati come la Grecia fa parte della comunità europea. Mi sembra un parallelo difficile da fare dal punto di vista, diciamo, dello sforzo che deve fare la comunità europea, che devono fare gli stati europei per aiutare la Grecia. È un paragone che vale, diciamo, perché mette a confronto due situazioni di finanze pubbliche sicuramente dissestate, nel caso dell'Argentina in maniera particolare, nel caso della Grecia molto molto fragili, non certo a livello dell'Argentina, ma direi che è un confronto che si può fare più per così una finalità di studio, di analisi. Ma nel concreto parliamo di due cose molto molto diverse. Vicinanza, un'altra osservazione che stanno facendo in molti ascoltatori, e per la verità questo era il tema che avrei voluto affrontare anche io: ci spiega come mai su questo salvataggio si concentra soprattutto il mercato valutario, l'euro scende nei confronti delle altre divise mentre la borsa sembra disinteressarsi completamente. È chiaro che il salvataggio è una buona notizia, verrà fatto con le modalità che poi conosceremo prossimamente, però è giusto che la borsa in qualche maniera cinicamente speculi su queste brindi su questo? Ma distinguiamo l'aspetto valutario dall'aspetto legato all'andamento dei mercati azionari. Per quanto riguarda l'aspetto valutario, l'idea è che comunque vada a finire la vicenda. L'euro mostra una qualcosa che deve essere rivisto in termini della governance generale dal punto di vista sia politico sia finanziario. L'altro tema caldo sempre sul fronte valutario è l'idea che di fronte ad una situazione dove è richiesto uno sforzo di tutti di molti paesi a ridurre il proprio deficit, la banca centrale potrebbe essere più accomodante per più tempo e questo potrebbe in qualche modo sfavorire l'euro nei confronti del dollaro. Quindi in qualche maniera l'intervento diretto della banca centrale europea non può esserci in questo frangente, lo fa indirettamente continuando a mantenere la politica monetaria favorevole. Il passaggio mediato ragiona su questo tema. Se questi paesi devono attuare politiche fiscali restrittive, la crescita sarà danneggiata da questo fenomeno e quindi è possibile che la banca centrale, di fronte a tassi di crescita meno forti di quello che si poteva immaginare, potrà essere per più tempo espansiva. Allora, noi ci dobbiamo fermare perché abbiamo già la prima pausa. Si parlava nei giorni scorsi anche di questa azione coordinata a tavolino negli Stati Uniti, in una grande boutique di investimenti, un'azione concertata proprio per mettere sotto scacco e sotto attacco l'euro. Vedremo anche se tutte queste indiscrezioni, che trovano grande spazio sempre sui giornali, trovano anche poi la verità tra gli operatori. La commenteremo insieme. Ci sono tanti altri punti anche da affrontare. Cercheremo di capire quanto debito ha la Grecia in scadenza e come si dovrebbe concretizzare questo intervento appunto franco-tedesco, e quanto poi tutto questo si rifletterà anche, perché no, sulla per esempio, ai titoli di Stato italiani, visto che c'è anche una relazione molto interessante da analizzare. Oggi a Salvadanaio siamo ritornati un po' a monitorare i mercati alla luce di queste indiscrezioni che si stanno rafforzando sempre di più, secondo le quali sarebbe pronto questo piano franco-tedesco per salvare la Grecia. Naturalmente banche tedesche e francesi pronte ad acquistare titoli del debito greco, tra l'altro ce ne sono in scadenza una marea, 20 miliardi almeno entro aprile. E allora noi stiamo cercando di capire, non abbiamo molti dettagli, ma in cosa potrebbe concretizzarsi questo piano, che effetti potrebbe avere e soprattutto perché la borsa si disinteressa rispetto a questa cosa, che è una notizia molto importante, sicuramente positiva il fatto che il paese dell'eurozona venga salvato, ma tutto sommato c'è da brindare, giusto che la borsa lo faccia, e soprattutto come può un piccolo investitore anche osservare, imparando qualcosa da questa situazione. 800 24 00 24, sono pronti alcuni ascoltatori. Prima vi volevo dare un'informazione di servizio, non lo facciamo spesso oggi, però noi vogliamo darvi questa notizia perché è venuto a mancare nei giorni scorsi Luigi Martino, che era il presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. È mancato appunto nella notte fra il 26 e il 27 febbraio. Perché lo ricordiamo? Perché ha collaborato tantissimo con noi di Salvadanaio, con il Sole 24 Ore. L'Ordine di Milano, per volontà dello stesso Martino, aveva aperto una sottoscrizione per Haiti per collaborare alla realizzazione del reparto di fisioterapia e applicazione protesi presso la Casa dei Piccoli Angeli, presente proprio sull'isola, che è stata devastata, come ricorderete, qualche mese fa dal terremoto. E allora, per chi volesse continuare queste sottoscrizioni, può collegarsi al sito dell'Ordine dei Commercialisti di Milano. Ci sono anche tutte le modalità per le persone che non sono dei commercialisti, per degli esterni, appunto per dare il proprio contributo e quindi continuare anche questo impegno che Martino si era preso, e quindi lo ricordiamo così anche noi. Allora, ritorniamo al nostro argomento. Vicinanza non aveva completato la sua risposta, sono qua naturalmente a ricordarglielo. Perché la borsa è così felice di questo salvataggio? Non è un tema del quale preoccuparsi invece enormemente? Sulla parte valutaria si è detto. Per quanto riguarda i mercati azionari, la premessa che farei è che alla fine la sorte degli indici per quanto riguarda quest'anno dipende fondamentalmente dall'evoluzione del quadro macroeconomico. L'elemento Grecia è un evento di una certa rilevanza, perché naturalmente un evento catastrofico in tema di rischio paese, sto parlando di un possibile stato di insolvenza della Grecia, avrebbe una forte ripercussione sugli istituti finanziari, soprattutto dell'area euro, e quindi indirettamente sui listini nei quali il settore finanziario è sempre molto pesato. Perché dico questo? Perché il debito greco è detenuto per buona parte all'estero ed è detenuto dai grossi player finanziari dell'area euro. Non è un caso che il salvataggio sia orchestrato in primis da Francia e Germania, perché in Francia e Germania ci sono le banche coinvolte in questa vicenda. La Germania è esposta per qualcosa come 43 miliardi. miliardi verso la Grecia e la Francia per 75, quindi è come dire, il paese che ha l'esposizione più ampia, la Svizzera 63, noi in Italia credo che abbiamo un'esposizione di 8 miliardi, sì, quindi modesta. Pierazzi, almeno da questo punto di vista possiamo stare tranquilli. Sì, non dovremmo avere molti titoli del debito greco in circolazione anche fra il pubblico indistinto in Italia, dovesse capitare il peggio. No, non si è ripetuta la storia dell'Argentina di cui parlava l'ascoltatore di cui prima. Nel nostro messaggio, sì. Esatto. E quindi direi che questo non è una grande preoccupazione a livello diffuso, perlomeno in Italia. Direi che la preoccupazione del settore finanziario europeo è forte non solo per quello che riguarda la Grecia, ma perché la Grecia teoricamente può essere l'innesco per crisi successive. In particolar modo la Spagna è diciamo un anello debole della catena europea, e la Spagna è per le banche europee, particolarmente per le banche tedesche, ancora più che per le banche francesi, un luogo di fortissima esposizione. Quindi se la crisi greca si dovesse avvitare, la tappa successiva sarebbe un attacco dei mercati alla Spagna, e questo significherebbe una sofferenza molto maggiore per gli istituti finanziari europei, che sono esposti nei confronti della Spagna 5-6 volte quello che sono esposti verso la Grecia. Allora, a proposito di possibili contagi o un possibile contagio ad altre economie, c'è chi non ci sta proprio a ritenere l'Italia immune rispetto a tutto quello che sta accadendo. Allora, sentiamo un po' le preoccupazioni di Antonio da Piacenza. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Grazie a lei, Antonio. Seguendo un po' i notiziari, vedo che accenni di attacco all'Italia cominciano già a esserci, a parte che c'era già stato un accenno in autunno, anche perché effettivamente il bilancio italiano secondo me non è chiarissimo, perché noi sappiamo che lo Stato italiano ha dei debiti enormi distribuiti in giro con le scuole, con le ASL, poi ci sono debiti delle varie amministrazioni locali, eccetera. Quindi in realtà c'è il pericolo che salti fuori che anche il nostro debito è superiore a quanto dichiarato. Insomma, io ho parecchio timore che l'Italia possa essere lei uno dei prossimi obiettivi, e in quel caso lì che sarebbe un attacco mortale. Allora, sentiamo, sì, Antonio, peraltro... Posso dare un suggerimento? Sì. Quando fate i collegamenti ogni mezz'ora, almeno un paio di volte al giorno, mettete anche qualche accenno al valore dei titoli di Stato. Lo so, abbiamo veramente 50 secondi in quel momento, Antonio. Io la ringrazio per il suggerimento, vediamo quello che possiamo fare, più che però organizzare ogni tanto qualche puntata di Salvadanaio, chiaramente fare anche qualche punto ogni tanto con Focus Economia su questi argomenti è un po' difficile, però insomma magari ci pensiamo, Antonio, prendiamo in considerazione anche questo aspetto. Allora, Marco Vicinanza, debito pubblico italiano, adesso a prescindere dalle preoccupazioni di Antonio, un debito pubblico che è enorme già da tanti anni, e peraltro qualche suo collega in qualche altra trasmissione in questa stessa sede mi ha detto sì, è una situazione preoccupante, però il nostro debito non è cresciuto in maniera vistosa e repentina come è successo in altre economie, questo già ci mette un po' più al sicuro rispetto ad altre zone appunto dell'eurozona molto più fragili. E oltre a questo io ci metto anche che comunque le nostre aste sono ancora molto ben frequentate, non abbiamo dovuto metterci in ginocchio a chiedere di sottoscrivere il nostro debito, siamo anche nelle condizioni di come dire, praticare dei tassi piuttosto bassi e il nostro debito continua ancora a circolare, ma questo non basta a rassicurare molta fetta della popolazione. Ma su questo tema c'è grande dibattito, molto spesso colorato da diverse opinioni politiche. Il punto, secondo me, detto in due parole, è questo: la situazione italiana non è una situazione in nessun caso di assoluta tranquillità. È vero che in relativo la crisi ha visto l'Italia migliorare. In relativo, insisto su questo punto, mi spiego, il debito pubblico era alto e non è sceso, anzi è cresciuto, ma quello di molti paesi è cresciuto di più. Il deficit pubblico rimane di entità non trascurabile, è cresciuto anche questo, siamo al 4%, ma 4% è un numero che adesso si compara con numeri molto più brutti all'estero. E altra considerazione, il mercato ha iniziato a ragionare in termini anche un po' più vasti, non soltanto guardando il deficit al debito, ma altri parametri che sono legati alla sicurezza di un paese. Quanto risparmio interno c'è? Da questo punto di vista, quando lei dice le aste italiane sono ancora ben frequentate, questo è un sintomo del fatto che esiste risparmio disposto a comprare il proprio mercato. Mm-hmm. Paesi che dipendono più nel collocamento del proprio debito da paesi terzi sono più in difficoltà. Quindi complessivamente, per dirlo in tre parole, la situazione italiana rimane una situazione sotto la lente, una situazione critica dal punto di vista dei parametri classici di Maastricht, però rispetto a quello che sta succedendo in altri paesi noi adesso siamo un po' meno. Siamo un po' più fuori dall'occhio del ciclone. Tanto è vero che, come abbiamo detto più volte, siamo usciti anche dalla rosa dei PIGS, Pierazzi. Lei come vede questa situazione italiana? Perché è chiaro che una domanda devo fare a tutti coloro che interpello quando così chiedo aiuto proprio per analizzare la situazione di mercato. Ma l'Italia sicuramente non è oggi in prima linea. In prima linea c'è la Grecia, non è neanche in seconda linea. In seconda linea c'è sicuramente la Spagna. L'Italia viene sicuramente dietro tra gli obiettivi possibili di una speculazione internazionale che punti a guadagnare sulle difficoltà di un sistema finanziario paese. Quindi mi sembra che non ci sia una questione urgente sull'Italia. Certo, come diceva Vicinanza, la situazione è delicata, lo è da anni. Non vi è un'accelerazione di questa crisi nei nostri conti, che peggiorano ma meno che altrove, e quindi in questo senso l'Italia ha dato qualche segnale, diciamo così, di robustezza, di contenimento delle conseguenze di questa situazione. Certo, non siamo tra i paesi più robusti, su questo non c'è dubbio, e abbiamo alle spalle delle esperienze che ci ricordiamo, almeno chi di noi era nei mercati finanziari già allora, ci ricordiamo bene la crisi valutaria del 92, cosa significò, quante difficoltà, uscita dal serpente monetario, quante difficoltà portò all'Italia, ma anche la crisi sui bonds, sui titoli di Stato del 95, quando lo spread tra il BTP e il Bund, cioè tra i titoli di Stato italiani e i titoli di Stato tedesco. Arrivò a 650 basis point di differenza, cioè i titoli tedeschi rendevano il 6%, o se vogliamo lo Stato tedesco si indebitava con un tasso del 6,5%, lo Stato italiano del 13%, mm-hmm, ecco, del doppio. E naturalmente pagare il 13% di interessi o pagare il 6% di interessi, come sanno tutti gli imprenditori, fa una bella differenza nello sviluppo dell'accumulo del debito. Oggi questa situazione non c'è. Oggi paghiamo dei tassi che sono vicini a quelli che paga lo Stato tedesco. No, stavo sentendo tra l'altro queste percentuali, perché oggi veramente in molti suggeriscono di essere molto attenti proprio ai rendimenti e super rendimenti proposti dai titoli di Stato in circolazione. Abbiamo fatto un gran parlare di questo 6,5% che la Grecia ha dovuto riconoscere nell'ultima asta che ha fatto su titoli quinquennali, e già lì ci siamo preoccupati, se ripensiamo effettivamente alla situazione del 92. E però questo non significa che dobbiamo dormire completamente sonni tranquilli. Magari con Vicinanza adesso facciamo più un bel giardinetto di titoli di Stato, insomma, quali sono quelli giusti da mettere in un portafoglio per gli irriducibili del bond governativo, per chi proprio non vuole sentir parlare di borsa ma vuole investire solamente nelle obbligazioni governative. Che cosa è bene fare adesso, come è bene comporlo? Voi tra l'altro so che avete anche un prodotto in cassa vostra che state lanciando in questo momento, che è specializzato proprio su questo, anzi ce ne sono diversi, magari anche di questo parleremo tra pochissimo. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi. Invece faccio preparare Pierazzi su un'altra cosa, perché ho letto in un report che, le leggo un brevissimo stralcio, la Grecia è ormai trattata dal mercato peggio di un paese emergente medio. Nello spazio europeo si ritiene che solo la Lettonia abbia un profilo di rischio più alto. La Lettonia è un paese salvato in extremis dal Fondo Monetario e dall'Unione Europea nel 2008. Siccome so che le economie dell'est sono invece il terreno che lei pratica meglio, magari le chiedo anche un giudizio su questo. E che stato di salute hanno adesso quelle zone? Dovete rimettervi le cuffie, rimettervi davanti al microfono, perché ho due ospiti molto simpatici. Il tema è quello che è, insomma, poi magari anche divertente, affascinante per chi osserva il mercato tutti i giorni come facciamo noi. E però ci stiamo anche un po' divertendo. Perché? Perché adesso faccio fare a Marco Vicinanza il suo lavoro, che è quello del direttore investimenti dei fondi comuni di Arca SGR. Voi state puntando soprattutto su un prodotto che valorizza la componente cedolare delle obbligazioni governative. breve. E quindi ci deve dire allora, per un investitore di quelli tipici che ci possono ascoltare, a Salvadanaio non abbiamo dei grandi portafogli perché i ricconi si rivolgono altrove, vanno alle strutture di private banking, delle società di investimento, ma per un investitore modesto, insomma, che non guarda ancora la borsa perché ancora non ci crede, ma è un irriducibile delle... quello che viene considerato reddito fisso, insomma, che suggerimenti gli possiamo dare in un frangente così delicato? Ma naturalmente la solita vecchia ricetta, non si sbaglia mai, è un portafoglio di titoli obbligazionari, soprattutto in una fase in cui è tornato in auge l'idea che ci possa essere un rischio di insolvenza anche per i debitori sovrani, un portafoglio di titoli governativi deve essere un buon portafoglio, un portafoglio ben diversificato. Mm-hmm. Se do subito la risposta diretta, secondo me un po' di Grecia ci può stare. Io credo che l'evento catastrofico, non voglio prenderla in modo leggero, non è a probabilità zero, ma la probabilità che alla fine la Grecia scelga uno stato di insolvenza sono molto molto basse. Quindi, visto i rendimenti che in questo momento offre, secondo me un investimento moderato su titoli greci ci può stare. Il BTP deve essere comunque una componente significativa di un portafoglio del genere, e poi tutto sommato vale la pena pagare un po' di scotto in termini di minori rendimenti per acquisire un po' più di sicurezza, e quindi anche paesi come la Grecia, come la Germania, come la Francia rendono un po' di meno, però sicuramente è una situazione dal punto di vista dei conti pubblici più sana. Semmai dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, la sfida a tendere sarà quella di capire come combinare questo portafoglio con un portafoglio di paesi emergenti, ma poi credo che Luca Pierazzi espanderà sul tema. Quello che sta succedendo nel mondo, in effetti, è che vediamo un fenomeno di progressivo miglioramento delle situazioni di solvibilità dei paesi emergenti e un deterioramento dei paesi sviluppati. Quindi forse a tendere i nostri portafogli del futuro dovranno essere composti con un po' più di quelli che adesso chiamiamo i paesi emergenti, un po' meno di quelli che chiamiamo i paesi emersi. Per esempio, Pierazzi, a lei quali convincono in questo momento? Ma in generale i paesi emergenti, come diceva Vicinanza, stanno migliorando i loro conti, le loro situazioni, diciamo, sono in situazioni di equilibrio maggiore rispetto al passato, sono più emersi. Ecco, i paesi emergenti sono più emersi, e forse invece i paesi industriali storici sono un pochino più immersi di quanto non fossero prima. Quindi le distanze si riducono. I paesi che forse sono più attraenti sono le zone, diciamo, emergenti che sono più attraenti, sono probabilmente l'India e l'Europa dell'Est. Perché sono stati anche quelli che forse hanno su cui i mercati hanno scommesso meno e di cui hanno colto meno i driver della crescita. Anche perché vengono considerati l'India in particolar modo, nonostante i tassi di crescita enormi, comunque ancora talmente arretrati dal punto di vista delle infrastrutture e di tante altre problematiche, che forse effettivamente hanno lasciato un po' così scettici molti investitori. Esattamente. Bisogna dire anche un'altra cosa, che sull'India, per esempio, c'è una percezione dei numeri sia economici che finanziari che è maggiore rispetto a quella della Cina. È difficile avere delle valutazioni indipendenti sulla finanza pubblica e del sistema bancario cinese, è difficile avere dei numeri indipendenti sui dati di crescita della Cina, insomma bisogna prendere un po' per buono quello che ci viene detto, e è difficile fare delle valutazioni oggettive su come sta. L'India è un po' più trasparente. L'India è un po' più trasparente. Il Brasile sicuramente è un paese che sta andando molto bene, però diciamo che i mercati se ne sono accorti ampiamente e credo che abbiano un po' sfruttato tutto il potenziale che il mercato brasiliano, che l'economia brasiliana esprime. Credo che l'Europa dell'Est sia invece portatrice di qualche sorpresa in futuro, è rimasta un po' fuori. Esatto. dalla lente d'osservazione. Mi ricordo che quando io l'ho conosciuta un paio d'anni fa l'avevo proprio interpellata per analizzare la situazione molto difficile invece che quelle aree stavano vivendo, anche lì quasi tutte sull'orlo del tracollo finanziario, che poi non si è verificato a parte questo salvataggio della Lettonia. Esattamente. E direi che oggi c'è una situazione di una certa difficoltà in Ucraina, sicuramente è una situazione molto difficile, ci sono situazioni situazioni di chiaroscuro, di non grande, grande brillantezza, ci sono anche delle situazioni invece dove la situazione sta migliorando, oppure dove l'equilibrio è stato mantenuto anche durante la fase di crisi. La Polonia, per esempio, è un paese estremamente, estremamente robusto. La Russia, che è grosso modo il 50% del peso, anche più del peso di tutta l'Europa dell'Est, è un paese che sta andando molto bene. La crescita attesa per il 2010 è intorno al 5%, la finanza pubblica sta andando molto bene, è un paese che è terzo al mondo per riserve valutarie, l'inflazione, che era a due cifre soltanto pochi mesi fa, ormai è intorno all'8% e si prevede sotto il 5% per la fine dell'anno. Ecco, la Russia potrebbe essere la sorpresa dei mercati finanziari emergenti di quest'anno, anche perché i flussi finanziari sono tornati massicciamente sui paesi emergenti, ma soprattutto in Cina, in Brasile, in India, quasi per niente nei paesi dell'Europa dell'Est e in Russia. Quindi diciamo che nei grandi portafogli istituzionali gli investimenti in Russia devono essere ancora riequilibrati e rialzati. Questo significa quindi flussi finanziari importanti verso le borse di questi paesi. Mm-hmm. Quindi una sorpresa nel 2010, se dovessi puntare su qualcosa direi la Russia. Marco, vicinanza, io invece vorrei per chiudere chiedere, non siamo ritornati su questa faccenda del dettaglio del piano di salvataggio greco, ma insomma vedrà un intervento attivo delle banche francesi e tedesche, quando avremo dei dettagli, appunto, naturalmente ci ritorneremo con Salva Danaio, vedremo che impatto avrà questa concretezza poi sui mercati. Le chiedo un'ultima considerazione invece sugli Stati Uniti. Questa settimana abbiamo il dato sulla disoccupazione, è ovviamente il driver più importante a cui in questo momento, oggettivamente dal punto di vista macroeconomico si guarda. Facciamo delle previsioni, insomma, dagli Stati Uniti, una piccola riflessione per concludere? Ma fino adesso, a dispetto di molti commenti che si sentono, si sta verificando un fenomeno tipico che caratterizza l'uscita delle recessioni. L'occupazione reagisce solo in una seconda fase. La nostra idea è che fino adesso abbiamo visto ancora dati che mostrano distruzione dei posti di lavoro, ma nei prossimi mesi il segno si invertirà da meno a più. Quanto robusto sarà il tasso di crescita della nuova occupazione è un dato da verificare. Per il momento credo che i dati stanno seguendo la fisiologia tipica di una ripresa economica. Inizialmente è il settore delle scorte, il settore industriale che reagisce prima, l'occupazione è un segnale che arriva solo successivamente. Quindi fino adesso niente che faccia pensare che la ripresa stia deragliando. E intanto le borse europee stamattina si rafforzano. Forse non stiamo in chiusura, Parigi più 0,8, Francoforte più 0,7, Londra più 0,6, Milano, che è stata negativa per tutta la mattinata, sta guadagnando lo 0,65%, io di borsa non ci capisco più niente, insomma non si preoccupa di niente, meglio così. Andiamo avanti, grazie a Marco Vicinanza, Luca Pierazzi per essere stati con noi. Noi di Salva Danaio torniamo domani, buona giornata a tutti. Salva Danaio.